bella voce. Bravissima. Mille grazie. Certo, certo, bella voce. Ma quest'aria cospetto è assai noiosa. La musica ai miei tempi era altra cosa. A quando, per esempio, cantava Caffariello, quell'aria portentosa. Sentite, Don Alonso, eccola qua. Giannina, ma io dico Rosina. Quando mi sei vicina, amabile Rosina, il cuor mi balza il petto, mi balla il minuetto, tra la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Bravo, signor barbiere! Ma bravo! Niente affatto, scusi, son debolezze. E ben Guidone, e vieni a fare? Oh bella, vengo a farvi la barba. Oggi vi tocca. Oggi non voglio. Oggi non vuol, domani non potrò io. Perché? Perché ho da fare a tutti gli ufficiali del nuovo reggimento barba e testa. Alla Marchesa Andronica, il biondo parrucchin coi marronè, al contino Bombè, il ciuffo campanile, furgante all'avvocato Bernardone, che ieri s'ammalò d'indigestione. E poi, che serve? Domani non posso. Orso, meno parole. Oggi non vo far barba. No, cospetto, guardate che avventori. Vengo stamane in casa dell'inferno, ritorno dopo pranzo. Oggi non voglio. Ma che m'avete preso per un qualche barbier da contadini? Chiamate pure un altro, io me ne vado. E serve a modo suo, e di che fantasia? Va in camera a pigliar la biancheria. No, vado io stesso. Ah, se mi dava in mano il mazzo delle chiavi, ero a cavallo. Dite, non è fra quelle la chiave che apre quella gelosia? Sì, certo, è la più nuova. Ah, son pur buono. A lasciar qui quel diavolo di barbiere. Animo, va tu stesso. Passato il corridor sopra l'armadio, il tutto troverai. Ora, non toccar nulla. Non son matto. Allegri, vado e torno. Il colpo è fatto. E quel briccon che al conte ha portato il biglietto di Rosina. Mi sembra un imbroglion di prima sfera. A me non me la ficca. Ah, disgraziato me! Ah, che rumore! Oh, che brico! Me lo diceva il cuore! Quel pigro è un grand'uomo, or che siamo soli, ditemi, oh cara, il vostro è il mio destino, d'unir siete contenta, franchezza! Ah, oh, mio limboro! Altro io non bravo! Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ben... Tutto marotto! Sei piatti, otto bicchieri, una terrina! Vedete che gran cosa, ad una chiave, se non m'attaccava per fortuna, per quel maledettissimo corridor, così oscuro, spezzato mi sarei la testa al muro, tieni un'istanza al buio, e poi... Ma non più! Dunque andiam! Giudizio! Anonimo!